esa vida. Perché gusti guardando che facite, poi no brasiere un vieto ma picciato. M'ha parlato, pare che senza lacrime chiagnite da sta faccella ianca n'amasita, occhio bello, occhio dolce, occhio affatato. E mali ciurva rapita insieme culi ciurva inserrata ciurva da passione ma parita un sentimento dell'innamorato. Avete fatto male e lo sapete, occhi di suono nera appassionata. Avete fatto male e lo sapete, occhi di suono nera appassionata.